Focus Economia di Sebastiano Barisoni. Minuti, inizia la prima puntata della settimana di Focus Economia. I temi, il tema potremmo dire oggi, di questa puntata, di questa giornata economico-finanziaria. Il tema, perché il tema si chiama chiaramente Grecia. Allora, vediamo di analizzarlo da vari aspetti. Intanto la reazione della borsa, inequivocabile, già in apertura al 2%. Di rialzo adesso il 3,20 Milano, il 3,80 Parigi, il 3,70 Francoforte, basta guardare Londra perché non è dentro l'euro e guadagna solo tra virgolette l'1,5 per capire che almeno 2 punti percentuali le borse dentro l'euro li portano a casa, perché i mercati scommettono che tanto non si arriverà alla Grexit, non si arriverà da questo punto di vista l'uscita né al default né l'eventuale uscita della Grecia dall'euro, figuriamoci l'Unione Europea. Tutti scommettono che nel vertice che inizierà fra meno di 2 ore, l'Eurogruppo straordinario, dopo che alle 12.30 aveva stato quello già previsto, e poi gli incontri tra Tsipras e i rappresentanti di Fondo Monetario, BCE, racconteremo varie dichiarazioni, poi nella seconda ora dalle 18 in poi ascolteremo anche alcune delle frasi. Dico subito che, pur con il distinguo, Schäuble che dice non c'è ancora nessun testo, non so, non abbiamo ricevuto proposte di sostanza, il ministro delle finanze tedesco, niente di nuovo, non possiamo preparare il summit, ma sappiamo che Schäuble è il falco. Angela Merkel invece getta acqua sul fuoco e ha detto alla cancelliera tedesca: beh, se non si decide oggi ci sono ancora molti giorni di tempo in questa settimana per arrivare a una decisione. Come dire, attenzione, non è che oggi finisce il mondo e finisce l'euro. E poi, li leggo già tutti così facciamo prima, il commissario europeo agli affari economico monetari, Pierre Moscovici, che al termine dell'Eurogruppo delle 12.30, ha durato un'ora perché tanto non c'era altro di cui parlare se non la Grecia, adesso lo dico come battuta, ha detto: beh, la proposta presentata dalla Grecia finalmente è una base solida e globale su cui discutere, resta ancora del lavoro da fare. E adesso racconterò anche della proposta greca, della proposta e delle richieste invece che arrivano dall'Unione Europea. Ma per quello che riguarda altre dichiarazioni, faccio notare che oltre a Moscovici c'è stato anche il presidente dell'Eurogruppo di Dijsselbloem, che ha detto: attenzione, serve un lavoro tecnico sulle proposte, per ora abbiamo solo una prima impressione, ma su questo non abbiamo ancora una parte tecnica per quello che riguarda le proposte. Allora, questo cosa vuol dire sostanzialmente? Vuol dire che c'è stato un avvicinamento, che la nuova proposta greca di mantenere 3 aliquote sull'IVA, non 2 come vuole la Troica, però di bloccare i prepensionamenti, il sì greco all'avere un avanzo primario dell'1%, come chiede la Troica e l'Unione Europea, sta diventando una piattaforma di lavoro. C'è anche probabilmente la tendenza, la volontà di non esacerbare gli animi e arrivare a un accordo politico, che forse non si riesce a fare con queste tensioni, e di far slittare, da quello che abbiamo capito, poi ne parleremo più avanti, tutto a una nuova data con accordi di carattere più tecnico, ma che facciano uscire questa vicenda dal confronto politico, con risvolti anche delle volte nazionalistici, che ha assunto, e quindi che diventi una trattativa di carattere tecnico tra un paese membro, i suoi creditori, e sì, tecnicismi che facciano, diciamo così, uscire dai riflettori la vicenda greca e la trasformino in un accordo di carattere tecnico. Lo dico perché poi nessuno può dire, infatti Schäuble non lo dice, è arrivata una proposta, ma insomma la sensazione che le posizioni a confronto si siano ridotte è una sensazione molto forte. Poi verremo smentiti, e anche se Tsipras spinge per un'intesa definitiva e non per un accordo ponte, chi se ne frega, il problema è salvare in questo caso capre capoli e cavoli. Il mercato ci scommette, tant'è che anche l'euro si è rafforzato a quota 1,14. 349-238-6666 per i vostri sms, la pagina di Focus Economia per quello che riguarda le mail da scrivere sul sito di Radio 24. Le altre notizie in breve. Intanto analizziamo il mercato, visto il rialzo netto e sempre più forte della borsa. Devo dire, sale tutto, oggi il commento di borsa si può chiamare Grecia e basta, insomma tutte le banche, è ovvio, sono quelle che in pancia hanno i titoli di Stato e si muovono in negativo quando le tensioni sulla Grecia e sull'euro aumentano, si muovono in positivo quando le tensioni sulla Grecia e sull'euro diminuiscono. Popolare Emilia Romagna più 6,5, Mediolanum più 5,80, Mediobanca più 5,60, come Banco Popolare, Unicredit più 5,40, Ubibanca più 5, Intesa San Paolo più 4,70, Monte dei Paschi più 4%. Forti, ma qui non c'entra niente la Grecia, anche due titoli energetici come Saipem più 6% ed Eni più 4,20%. Beh, Saipem sulle commesse per il futuro gasdotto Turkish Stream. Oggi debutta in borsa Inuit e quindi la parte di cui molto abbiamo parlato in questi giorni, Inuit è partita molto bene, più 11,12%, fronte opposto di Mail Group meno 5,90. Bene anche CNH Industrial più 4%, Yux più 3,70, SteamMicroelectronics più 3,60 come Enel Green Power, Finmeccanica più 3,40, Boots Unicem più 3% come Autogrill. Diciamo che di negativo oggi c'è Unipulsai meno 4,30, però attenzione, stacca i dividendi sia Unipulsai, e quindi il dato è completamente falsato. Terna stacca il dividendo e anch'essa infatti nominalmente cala dell'1,1%, Enel stacca il dividendo e anche lei cala nominalmente dell'1%, e A2A dello 0,18%, anch'essa stacca il dividendo. Allora, per quello che riguarda Grecia e mercati, le anticipazioni le abbiamo date, ci sono anche le dichiarazioni di Mario Draghi, che forse non ho citato, colpa mia, il quale ha detto, alcune indiscrezioni sostengono che la BCE abbia già deciso di dare via libera a un aumento della liquidità verso le banche greche, aumentandola di un altro miliardo e 300 milioni, portandola complessivamente col meccanismo ELA a 87,2 miliardi, che permetterebbe alle banche greche di non avere problemi sul fronte della liquidità disponibile. E poi Draghi ha aggiunto: l'Europa deve salvaguardare l'irreversibilità dell'unione monetaria. Ovviamente alla Grecia sono dedicati, come era presumibile, i 100 secondi di Radio 24, sono 24 ore, trasmessi anche su Radio Dimensione Suono. Oggi la firma è del vice direttore Alessandro Plateroti. I 100 secondi di Radio 24, il sole 24 ore, con Alessandro Plateroti. È arrivata l'ora di un accordo con la Grecia? I mercati finanziari sembrano pensarla così, visto il rally delle borse, in Italia come nel resto d'Europa, e il forte recupero dei titoli di Stato, i BTP, i bonus, con un indebolimento simultaneo di quei titoli di Stato dell'Europa forte, soprattutto Inghilterra e Germania. Ma che cos'è che sembra sbloccare l'impasse? Delle nuove concessioni fatte dalla Grecia, soprattutto sullo stop ai prepensionamenti e la rivalutazione delle pensioni. Ma ci si chiede, ma dobbiamo aspettare 5 anni, far perdere alle borse 1.000 miliardi in pochi mesi per arrivare a un accordo che si poteva sottoscrivere un mese fa? Beh, l'impressione è che oggi si stia semplicemente gettando le basi per superare questo impasse e dare alla Grecia ossigeno fino a fine anno. Nessuno crede che la Grecia si riprenda da un giorno all'altro e possa ripagare tutti i debiti. Però, se non altro, questa volta sembra esserci un primo canovaccio di discussione che sembra soddisfare meglio le ansie dell'Europa, che è più intransigente nei confronti dei paesi deboli. Comunque sia, l'accordo dovrebbe arrivare? Certamente, ma la riflessione rimane sempre la stessa. Non solo quanto a lungo durerà il denaro ai greci, ma soprattutto che cosa succederà se le difficoltà si presentano in paesi più forti, e qui non parliamo soltanto dell'Italia, ma neanche, per esempio, potrebbero tornare in Spagna dopo le elezioni. Nessuno lo sa esattamente. Perché? Perché se non torna un'Europa politica in grado di presentare proposte del perché i paesi europei debbano stare insieme, malgrado le loro differenze linguistiche e culturali, beh, non c'è denaro che tenga. Ma l'Europa, purtroppo, è destinata a soffrire ancora. Seguici dal lunedì al venerdì su Radio 24 e RDS e in video su radio24.it e rds.it. Allora, prima di tornare sulla Grecia, visto che oggi la puntata, non dico che sia monotematica, ma quasi, vorrei restare sull'Italia e sull'industria alimentare italiana, non tanto sui consumi italiani, perché per il rapporto Confesercenti, che registra come 8 piccole e medie imprese su 10 non vedono ancora alcun segnale di ripresa, solo per il 17% ci sono segnali di miglioramento, il 75% delle imprese intervistate da Confesercenti con SVG chiede una riforma fiscale. E ancora, oggi, se il presidente Confindustria Squinzi chiede di rivedere il welfare per garantire una sostenibilità del sistema, e mentre nel giorno in cui Ivan Lobello è diventato il nuovo presidente di Union Camere, l'associazione che rappresenta le Camere di Commercio italiane, prende il posto dello storico presidente Dardanello, oggi però l'industria alimentare dei consumi riserva una notizia di quelle forti, perché il gruppo Ferrero ha annunciato il lancio di un'OPA, e un'OPA, se ho ben capito, ostile, non favorevole, non ben vista. Adesso vedremo quanto e come sarà la dinamica su un'azienda britannica. Uno dice: cos'è Tortons? Beh, Tortons è un colosso britannico nella produzione di cioccolata. Valorizza l'offerta lanciata da Ferrero, il gruppo, per 112 miliardi di sterline, milioni di sterline, praticamente 157 milioni di euro, e interamente in contanti, o meglio, come si dice, pagando le azioni cash, non dando in cambio o un concambio azionario, 145 pence per azione. Tortons è produttore inglese di cioccolate e cioccolatini, 242 negozi e caffè nel Regno Unito e in Irlanda, e oltre a 158 outlet in franchising, 3.500 dipendenti. Ha chiuso l'ultimo fatturato con 222 milioni di sterline e un utile operativo di 8,6 milioni. Emanuele Sarci, la firma del Sole 24 Ore, quando parliamo anche di industria alimentare. Buonasera. Buonasera. Allora, l'operazione può sembrare un'operazione non enorme per un gruppo dalla forza del gruppo Ferrero, perché quando tu hai un fatturato di 8 miliardi e 400 milioni di euro e 24 mila dipendenti, spendere 160 milioni di euro non è tantissimo. In realtà però delinea una strategia precisa di Ferrero, perché, ripeto, noi stessi Tortons lo conosciamo molto poco, ma c'è un obiettivo, non è semplicemente un aumentare il fatturato e aumentare, diciamo, le dimensioni in senso stretto. Sì, segna più che altro un cambio di strategia radicale da parte di Ferrero. Perché? Perché finora questo gruppo, questo grande gruppo, che è il terzo gruppo mondiale, il dolciario, è sempre cresciuto per linee interne. Ma cioè ora, con cresciuto di forza sua, senza comprare grandi marchi, diciamo. Esattamente. Soltanto l'anno scorso comprò un gruppo turco che però è produttore di materia prima, di nocciole. Sì. Questo invece è la prima, è il primo shopping che loro fanno. E quindi segna un cambio di strategia netto. Cioè, ricordo che 5 anni fa loro ebbero la tentazione di conquistare Cadbury, che che è un altro gigante inglese, ma che poi rinunciarono all'ultimo momento. Fu acquisita dalla Kraft per 11 miliardi di euro, quindi una cifra immensa. Quindi questo segna un cambio radicale, peraltro annunciato lo scorso 4 maggio da Giovanni Ferrero in Expo, quando disse: il passato è passato, ma ora è cambiato tutto. Forse anche perché è scomparso Michele Ferrero, il papà, e quindi lui in questo momento sente che bisogna crescere sia per linee interne che per linee esterne, perché loro sono il terzo produttore mondiale ed ambiscono a migliorare questa loro classifica. Allora, tu già ricordavi che insomma la Ferrero è il terzo produttore mondiale, ha tra l'altro, oltre ai marchi più conosciuti, Nutella, con buona pace, Ségolène Royal, che poi ha chiesto pure scusa, Dublo, Kind, Tic Tac, ma insomma 24.800 dipendenti, 5.000 collaboratori esterni. E se ben ricordo, perché ne hai scritto anche tu sul Sole, adesso vado a memoria, ha lanciato una campagna massiccia di acquisto, no, ha già comprato una produttrice di nocciole in Turchia, ma se ho ben visto ha chiesto anche alle regioni italiane di poter acquisire e mettere a coltivazione di nocciole migliaia e migliaia di ettari. Mi sembra di aver visto 3.000 ettari nelle Marche, 4.000 in Toscana. Emanuele. Sì, perché tutte le industrie dolciane in questo momento hanno un grande problema, quello della disponibilità della materia prima. Non di cacao, ma di nocciole, che hanno difficoltà a reperire interamente sul mercato italiano, ma si sforzano di farlo il più possibile. Quindi c'è sia un problema di nocciole che di cacao, di burro di cacao. Ecco, quello lì invece è prodotto nella Sud America, e in Africa, però quello dipende ai grandi produttori mondiali, insomma. Certo. Ecco. Comunque, tornando a noi, sì, certo, anche la Kinder non l'ho citata, sì, mi sembrava di sì. Comunque, tornando a noi, Rocher, questi grandi marchi, peraltro emimitati persino in Cina, ma mai uguagliati. Ecco, però la cosa importante, ripeto, non è solo commentare un'operazione da 160 milioni di euro, ammesso e non concesso che venga conclusa, mi sembra che, ma è capire che è la prima volta, a parte l'acquisizione, ma lì era proprio la fornitura di nocciole, che sì, Ferrero decide di comprarsi un marchio. È una cosa diversa. Luxottica, per esempio, ha fatto una crescita sia interna sia per grandi acquisizioni di marchi, pensiamo a Ray-Ban su tutti, no? Certo. Cioè, tu hai due modi per crescere: o cresci solo internamente, o cresci anche perché ti compri grandi marchi concorrenti, li porti nel gruppo mantenendo spesso il marchio, o delle volte anche no. Pensiamo al lusso a Louis Vuitton, Moët Hennessy, o al gruppo Kering, il suo concorrente. Questo vuol dire, intanto vorrei capire secondo te perché ha rotto questo tabù, perché ogni volta che si parlava di Ferrero in questi anni si ricordava che Ferrero era sempre cresciuta solo per linee interne e mai per aver comprato un concorrente. E secondo aspetto, se questo può delineare veramente una nuova strategia o è un caso sporadico e comunque non tale da giustificare un mutamento di rotta. No, io penso che ci sia stato un cambiamento di strategia, peraltro, come dicevo prima, annunciato lo scorso 4 maggio in Expo da Giovanni Ferrero. Ora loro hanno un'enorme liquidità. Tu pensa che soltanto di utile ante imposte loro fanno 900 milioni, hanno fatto nell'ultimo esercizio. Quindi dispongono di un patrimonio enorme. Si tratta di utilizzarlo al meglio. Per linee esterne, quando troveranno delle buone occasioni, sicuramente pare che le faranno. Per quanto riguarda le linee interne, loro comunque continuano a crescere per linee interne. Cioè, negli ultimi 2 anni hanno aperto un grande stabilimento in Turchia e un in Messico. Entro l'anno forse ne apriranno un altro in Cina, che è il primo mercato mondiale per quanto riguarda il consumo di cioccolato. Per cui loro stanno battendo adesso queste due vie. Perché? Perché non basta avere la terza posizione sul podio mondiale, ma vogliono fare di più. E capiscono che una crescita solo per linee interne è fragile, è insufficiente. È fragile, ma anche nei tempi, perché poi bisogna stare sempre attenti a quello che fanno i concorrenti. Cioè, magari ci metti 10 anni o 5 anni, ma non ce li hai 10 anni o 5 anni per occupare tutte le postazioni su livello mondiale. Sì, ma ti dico soltanto una cosa: sai che nel più grande mercato mondiale, appunto, come dicevo prima, che la Cina, loro arrivano adesso con la produzione diretta, pur essendoci dal punto di vista commerciale da molti anni. 20, 30 anni, 40 anni dopo che ha messo piede Kraft e Mars. Quindi arrivano tardi. Arrivano tardi, però hanno prodotti eccezionali che possono permettere loro di recuperare il tempo perduto e di diventare un punto di riferimento per tutto il Far East. Che sarebbe importante, noi tifiamo sempre e comunque Italia. Allora, staremo a vedere, ma mi sembra che la tua analisi sia abbastanza, diciamo, netta su questo. Non sarà un caso sporadico, il che non vuol dire, ci mancherebbe, rinunciare alla crescita interna, ma vuol dire affiancare anche una politica di acquisizione di marchi esterni per accelerare i tempi sulle dimensioni. E quindi grazie anche Emanuele Sacio del Sole 24 Ore, meteo e pubblicità. Focus Economia. Minuti di nuovo in diretta con Sebastiano Barisoni. Prima di arrivare alla borsa e alla lunga pagina greca, vorrei fare un punto, perché non è che il mondo termini o si fermi con la Grecia, che ripeto, adesso la borsa ha chiuso più 3,50%, quindi insomma tutti credono non all'accordo ma all'accordo ponte, alla parte al rinvio che poi porterà all'accordo tecnico, insomma sicuramente non la Grexit, stando ai mercati, poi anche i mercati si sbagliano e come. Però vorrei restare sul tema della nostra industria, in questo caso non alimentare ma complessivamente manifatturiera, perché oggi a Roma si è fatto il punto, e l'ho fatto Confindustria, su quanto il tema era la manifattura 4.0, ossia quanto le produzioni di manifattura anche classica si stiano integrando con i servizi digitali più innovativi. Lo diciamo spesso, la digitalizzazione non è solo un settore a sé, tranne che in Silicon Valley, è una contaminazione positiva che deve avvenire in tutti i settori produttivi in cui siamo forti, appunto dalle 4A classiche del nostro Made in Italy a tutti i settori dei distretti industriali. Gli obiettivi dell'Industrial Compact europeo, l'unico patto che a noi piace, non certo il Fiscal Compact, ma l'Industrial Compact sì, sono quelli di portare il peso del manifatturiero a livello europeo al 20% del PIL, dell'attuale 16%, entro il 2020. Gianni Potti, presidente Confindustria Servizi Innovativi, buonasera. Pronto? Buonasera ecco a voi. Lei è un po' come vorrebbe avere il ruolo che hanno gli anestesisti negli ospedali, cioè che non appartengono a nessun reparto e sono trasversali, se posso usare questo esempio, no? Sì, non è male. La ringrazio, ogni tanto mi riesce. Abbiamo bisogno di contaminarsi tra settori. Ecco, sì. E quindi la digitalizzazione non è riferita a un settore, così come l'anestesia non è riferita a una sala operatoria. Sono 40 associazioni di categoria e 50 sezioni territoriali che hanno le loro specificità, chiaramente ognuno ha i suoi prodotti e la sua categoria, ma aderiscono a questa, diciamo, associazione trasversale. L'obiettivo è lo stato dell'arte, perché gli ultimi rapporti che abbiamo visto sulla digitalizzazione delle imprese italiane ci lasciavano un po' così, sorpresi e delusi. Allora, noi puntiamo a quella che abbiamo chiamato la fabbrica 4.0, ovvero integrare fortemente i processi produttivi, reingegnerizzare i processi del manifatturiero, quindi benissimo l'Industrial Compact, puntiamo anche noi che veniamo dai servizi al 20%, perché solo un manifatturiero forte ci permette di ripartire dopo la crisi. Questa è un po' la nostra visione, siamo partiti dalla manifattura, non a caso oggi l'abbiamo fatto in Sala Pininfarina, in Confindustria, nella nostra sede centrale, perché lì è il cuore del manifatturiero. Ma questo è un tema che riguarderà successivamente l'agroalimentare, riguarderà il legno, riguarderà tutti i settori produttivi, perché alla fine, che noi chiamiamo digital transformation, deve pervadere tutto il sistema produttivo se vogliamo veramente dare una scossa al paese, insomma è una sfida paese, chiamiamola così. Che deve chiaramente contaminare tutto, è una sfida per tutto il paese, per tutti i settori. Dove si è più in ritardo, Presidente Potti? Ma se dobbiamo dare un'idea, secondo noi è proprio la cultura di impresa, che specie nelle PMI del nostro nord, del Veneto, della Lombardia, soffre più che in altre zone d'Italia. diciamo che un 30% delle aziende va di suo e va alla grande, per fortuna, e trae nel sistema. Anche nella digitalizzazione, giusto? Anche nella digitalizzazione, dove però io uso questa parola non pensando all'iPhone piuttosto che no, certo, a quello che di digitale ci sta intorno, ma digitale è il pretesto per appunto la digital transformation, ovvero rivedere i processi produttivi, ripensare all'azienda. Le faccio un esempio banale. E-commerce significa rivedere il marketing, rivedere il prodotto, rivedere la linea distributiva. Cioè, non è solamente quello di dire prendo lo stesso prodotto che vendevo in un negozio. No, delle volte le imprese hanno la tendenza a mettere, a usare internet come se fosse un catalogo online. Non è così, non è un catalogo. Pronto? Che tu mi sente? Sì, era sparito. No, dicevo che delle volte le imprese, quelle meno lungimiranti, hanno la tentazione, la tendenza a mettere, a usare internet come se fosse un catalogo online, no? Come se la brochure diventasse digitale, ma chi... Non è quello, è come guidare una macchina, diciamo, di grande cilindrata solo con la prima e la seconda, per usare un esempio. Perché... Assolutamente d'accordo, dicevamo oggi che non basta prendere Google Translator, mettere la bandierina su un sito in cui vendevo i miei prodotti e improvvisamente mi apro i mercati. In ogni mercato va fatto l'approccio culturale, tecnologico, di cultura soprattutto di quel paese. E poi e tutti i social, e anche la parte dei social forum, social networks, perché dei prodotti si parla in forum, magari di grandissimo seguito con decine di migliaia, ma anche con poche centinaia, dipende dal settore. Però se tu sei in un settore di nicchia e c'è un forum a livello mondiale in cui si commentano prodotti tuoi o dei concorrenti, ti conviene saperlo e anche alimentarlo per alcuni versi. Oggi direi che è fondamentale, anzi più che un sito è più importante l'e-marketing, come lo chiamiamo in gergo, ovvero tutta la parte social, lo storytelling, chiamatelo come volete, il racconto che sta intorno al prodotto che lo fa vendere, specie quello del Made in Italy. Storytelling sarebbe la narrativa, questo termine la narrativa politica, il renzismo come narrativa politica, ma qui non parliamo di politica, parliamo di capacità. No, in questo caso parliamo della narrativa di un vino e della zona da cui proviene. Ma anche di un prodotto e della ricerca che c'è dietro, potremmo usare decine di esempi. Certo. La parte invece per concludere più positiva, perché lei ci ha raccontato dove nel nord-est, nella dorsale adriatica, laddove ci sono i distretti di piccole imprese, ancora ci sia un po' di difficoltà a capire tutte le potenzialità di questo strumento. L'e-commerce appunto non lo fai mettendo un indirizzo mail e i prodotti del catalogo online, non è questo l'e-commerce. Però, allora, alcuni casi di eccellenza li abbiamo raccontati grazie anche al Sole, c'è un ebook che è scaricabile nell'home page del sito del Sole anche quest'oggi e nei prossimi giorni. Per esempio, noi raccontiamo 10 pillole di Fabbrica 4.0, mi viene in mente la Dallara, la Bertos, piuttosto che Umana, che mette in pista le risorse umane, casi in cui concretamente raccontiamo cos'è per noi la Fabbrica 4.0, dei benchmark di riferimento, ma spero in futuro, magari anche col vostro aiuto, di poterne raccontare degli altri, perché alla fine, ecco, lo storytelling, la narrazione ci serve per copiare, per imparare, per evolvere un pensiero. Allora, grazie, e speriamo che quest'opera anche di sensibilizzazione porti a un maggior investimento in digitale, al di là del riempirsi la bocca, perché sono sempre, quando si parla di innovazione, sono tutti d'accordo a parole, poi nei fatti un po' meno. Grazie quindi anche a chi ha questo compito di contaminare le varie associazioni di categoria, il presidente di Confindustria Servizi Innovativi Gianni Potti. Allora, uno dei commenti più facili della storia di questo programma di borsa oggi è in carico a Ceo Condina di Radio Corriere Sole 24 Ore. Buonasera, Ceo. Ciao, quindi posso solo sbagliare. Puoi solo sbagliare, nel senso che Popolare Emilia Romagna più 7,30, Banca Popolare più 6,12, Mediobanca più 6% come Mediolanum, Unicredit più 5,70, Ubibanca più 5,50, Monte dei Paschi più 5, Intesa più 5. E poi qui mi fermo perché il resto sono anche cresce un po' meno la Pop Milano più 1,85%. Il motivo si chiama Atene. Sì, assolutamente. Oggi diciamo che i listini, soprattutto nel pomeriggio, dopo il risultato dell'Eurogruppo, che ha detto che l'accordo è sostanzialmente vicino, hanno scommesso con forza in una soluzione, diciamo, tra virgolette, definitiva di quello che è il problema della Grecia, di cui sono arrivati, diciamo, tutti questi acquisti sul comparto bancario, che a loro volta poi sono legati al forte calo dello spread in Italia, ma sono degli acquisti che sono arrivati comunque su tutti i listini continentali. Milano è leggermente più penalizzata da alcuni stacchi dividendi, se no si allinea sui rialzi di Parigi, Francoforte e anche Madrid, che hanno chiuso vicino al 4%. Ecco, Milano ha guadagnato il 3,50%, Parigi il 3,81%, Francoforte il 3,81%, però Milano sconta lo stacco cedola di Unipolsai, che infatti ha fatto meno 4, stacco di dividendi, meno 4,21%, il giorno che il titolo stacca il dividendo, cioè distribuisce gli utili, perde l'equivalente di quello che distribuisce, se no, lo spiego ogni volta, ma non è sempre così automatico, se no basterebbe comprare il titolo il giorno prima, beccarsi la cedola e poi rivenderlo, non funziona così. Enel meno 0,80, anch'essa stacca il dividendo. Terna meno 0,60, stacca il dividendo. A2A più 0,18 con il dividendo. Quanto sarebbe l'indice senza lo stacco cedole? Dovresti sommare 0 più 0,45%, quindi saremmo a più in linea con Parigi. Guarda che Parigi e Francoforte sono tutti e due più 3,81, quindi anche noi saremmo più 3,85. Sì, cioè praticamente borse fotocopia, frutto di automatismi anche informatici nelle scelte degli operatori, mettiamola così. E invece qualche ragionamento in più c'è su Saipem più 6,40% ed Eni più 4,80%. Sì, diciamo che qui ci sono nuovi importanti passi avanti dal punto di vista politico per il nuovo gasdotto che verrà costruito, si pensa al posto di South Stream era il gasdotto in cui era impegnata fortemente Saipem, che doveva girare l'Ucraina, poi i contrasti tra Russia e Unione Europea l'hanno fatto saltare, al suo posto ci sarà Turkish Stream e sostanzialmente Saipem verrà risarcita, gli verranno date delle commesse in questo gasdotto. Oggi ci sono nuovi passi avanti dal punto di vista politico, perché dovrà passare anche da Atene, c'è il via libera della Grecia, e quindi Saipem ne ha beneficiato. Allora, grazie a Ceo Condi nella Radio Corriere sulle 24 ore. Di negativo, appunto, ci sono solo i titoli che staccavano dividendo. In assoluto la debuttante Inuit più 11,5%, EMS più 18,5%, Fedon più 17,80%, Fidia più 14,60%, fronte opposto Friendly Energy meno 5%, WM Capital meno 4,30%, Best Union Company meno 4,24%. Traffico. Focus Economia. Adriana. Oh. Non volevano che lo urlassi come venerdì scorso. Adriana, no, Adriana Ceretelli è presente, sta seguendo. No, gli ascoltatori non hai capito. Stanno, diciamo, sono messi come gli euroburocrati, non stanno benissimo alcuni di loro. Allora, Adriana Ceretelli in collegamento con noi da Bruxelles. L'Adriana o il Ceretelli barometro, o come l'avevo definito, mi sembra che ti abbiano un po' anticipato le borse oggi con questi rialzi molto forti, più 3,80%. Nessuno si illude, lo dico agli ascoltatori, che vi sia l'accordo. Abbiamo parlato di accordo ponte, di rinvio per arrivare a una parte tecnica, ma insomma, intanto dici come butta, che non mi rendo conto che non sia un'analisi molto forbita e diplomatica la Telegram, ma insomma, come butta, visto che fra un'ora, poco più di un'ora, inizia il super Eurogruppo? Ma direi che l'impressione che viene trasmessa dal presidente dell'Eurogruppo e in generale della Commissione Europea è che finalmente questa volta la proposta presentata e firmata da Tsipras e non da Varoufakis costituisca una base, diciamo, negoziale. Da qui a dire che sia la base negoziale e che ce ne passa. Su queste basi il negoziato ce ne passa, nel senso che proprio Juncker qualche minuto fa ha detto il negoziato è ripreso, lavoreremo, ma non sarà facile raggiungere un accordo, la strada è lunga. Quindi se si tiene conto che mancano 8 giorni al 30 di giugno, che è la scadenza appunto perché la Grecia in mancanza di fondi finisca in default, diciamo che le prospettive non sono ancora tranquillizzanti. Però ricordiamo, prego. Tutti intendono lavorare, tutti, Deutschenblum, il presidente dell'Eurogruppo, ha detto lavoreremo giorno e notte per raggiungere l'accordo entro la settimana. Quindi, insomma, se non altro dal blocco del negoziato cui si è raggiunto giovedì con la riunione dell'Eurogruppo fallita a Lussemburgo, adesso il negoziato riprende, probabilmente su una base negoziale solida, buona. L'accordo diventa possibile, però l'accordo ancora non c'è, insomma, questo è tutto. Allora, ricordiamo, mi sembra di capire che il barometro Cerretelli tenda al variabile sereno, meno alla tempesta, come l'ultima volta che ci siamo sentiti, però per sbloccare, giusto o no, capito bene? Che ti tendi più variabile sereno. Ecco. Allora, per sbloccare la tranche di aiuti che serve alla Grecia, perché l'Europa deve sbloccare una tranche di aiuti da 7 miliardi e 200 milioni di euro e Atene deve pagare entro il 30, come tu ricordavi, 1 miliardo e 600 milioni di euro al Fondo Monetario, erano le famose tranche che ha accorpato in una. Allora, la Troica o l'ex Troica ha proposto l'estensione del piano di salvataggio per 6 mesi con aiuti fino a 18 miliardi, chiede però in cambio che la Grecia realizzi anche quest'anno un avanzo primario. Cos'è l'avanzo primario? La differenza tra quanto esce ed entra nelle casse dello Stato prima di pagare gli interessi sul debito. Un avanzo primario all'1% del PIL, la revisione dell'IVA con due aliquote al 13-23%, ma non per l'elettricità, nuovi tagli di spesa, compresa la difesa, e correzione del bilancio pari al 2% del PIL. Atene cosa ha proposto? Misure fiscali permanenti per un valore circa il 2% del PIL, e su questo c'è già un punto di contatto. L'IVA è invece tre aliquote, 6,5, 13 e 23, però aumenterebbe alcune imposte su alberghi e prodotti alimentari. Stop ai prepensionamenti a partire dal 2016. Adriana, poi lo chiederò anche al nostro ospite nella seconda ora, Giulio Sapelli, ma il fatto che Tsipras spinga invece per un'intesa definitiva e non per una soluzione ponte è così tattica, perché gli va bene anche la soluzione transitoria, immagino. Ma io credo che Tsipras non sia in grado di imporre la propria soluzione, credo che diciamo l'obiettivo primario di Tsipras sia quello di chiudere con un accordo che sia in grado di vendere al proprio Parlamento e soprattutto al proprio partito Siriza, e al tempo stesso di aprire le basi per arrivare a un negoziato sulla ristrutturazione del debito, perché questa è questo è il vero obiettivo, certo. Ecco, quindi bisogna vedere se naturalmente ci riuscirà, se i creditori saranno disposti a diciamo cambiare i termini dell'attuale ristrutturazione implicita del debito, perché già Tsipras paga dei tassi di interesse ridicoli sul debito con scadenze ultradecennali, quindi bisogna vedere se ecco, questa parte resta sospesa. Riprendiamo Adriana Cerretelli, che è in collegamento da Bruxelles. Intanto vi leggo alcune agenzie appena battute e sul se che siamo rimasti un po' appesi, e non solo quelli che ricordavo in apertura, di Angela Merkel, di Mario Draghi, di Dijsselbloem, e anche del ministro dell'economia e delle finanze tedesco Schäuble, più freddo sull'intera operazione. Vedo adesso invece altre agenzie che confermano che l'incontro c'è chi fa anche la battuta, ma cosa serve un incontro a questo punto se non abbiamo un piano? Però abbiamo lasciato Adriana Cerretelli sul se Adriana. Sì. Pronto? Bisogna vedere se i pronto sì, ti se sento. Mi sentite? Se sì. I creditori saranno disposti a cancellare parte del debito, perché per ora non lo sembrano. Bisognerà vedere quali saranno i termini di tutto l'accordo, ma certamente alla fine ci dovrà essere un accordo complessivo, quindi che preveda sia la parte di sacrifici che Tsipras dovrà imporre ai greci, sia pur attenuati rispetto appunto a quelli originali, sia la parte del debito che per Tsipras è prioritaria. Adriana, quindi, ma immaginiamo che si arrivi a una transizione, un accordo ponte, così la Grecia poi riceve questi soldi e pagare il Fondo Monetario. Ma visto quello che si è rischiato, le tensioni, lo sfinimento anche degli ascoltatori, dei lettori, devo dire, non è che la prossima volta si cercherà una soluzione molto prima, magari rinegoziando il debito greco, pur di non arrivare a questi livelli come siamo arrivati in questi giorni? Ma sarebbe già un bel risultato di questa nostra pena, se così si facesse. Io temo che invece si chiuderà con un accordo con dei margini di ambiguità, perché sia la parte, diciamo, greca, sia la parte dei creditori ha bisogno di vendere poi questo accordo ai rispettivi parlamenti per farlo approvare, eccetera, e che quindi in realtà il nostro supplizio si interromperà per qualche settimana, ma riprenderà molto presto, anche perché appunto bisognerà poi vedere quanti soldi verranno dati. C'è questa ipotesi di maggiori soldi. Non so come faremo. Vedere in che termini. Ecco, sì, io temo che questo supplizio ci accompagnerà a lungo. No, ma non tu sei bravissima, la tua voce è un'arpa per noi. Il problema è che non ce la facciamo nemmeno più noi a parlare sempre di Grecia e a mantenere viva l'attenzione degli ascoltatori. Comunque, grazie per ora, Adriana Ceretelli. Vedo che c'è stata un'altra riunione preparatoria pre-vertice che inizia fra poco più di un'ora, e a cui hanno partecipato il presidente della BCE Mario Draghi, il presidente del Consiglio europeo Donald Tusk, il presidente dell'Eurogruppo Aaron Dijsselbloem, il direttore del Fondo monetario Christine Lagarde, dopo la fine dell'Eurogruppo, e chiaramente il presidente della Commissione Juncker, cioè tutti riuniti per lui. Il segnale orario vi è offerto da Proteggi la tua casa. Index isola, impermeabilizza e risana in più di 100 paesi nel mondo. Indexpa.it. Focus economia. In diretta con Sebastiano Barisoni. Allora, al di là di quello che capiterà alle 19, quando dovrebbe, salvo sorprese dell'ultimo minuto, avere inizio il vertice straordinario dei paesi euro sulla Grecia, e al di là di quello che ci ha appena ricordato Adriana Ceretelli, qui il ragionamento si impone, perché insomma, se sembra chiaro che si arriverà a un altro passaggio ponte, un altro temporeggiamento, un altro rinvio tecnico, ripeto, perché si fosse perso la prima parte del programma, più voci di agenzia dicono che la BCE in realtà avrebbe già dato via libera a un aumento della liquidità d'emergenza che mette a disposizione delle banche greche per 1,3 miliardi, portando il meccanismo cosiddetto ELA a 87,2 miliardi. Ma soprattutto è interessante notare quanto scrive il presidente della Banca Centrale Europea Mario Draghi sull'Europa che deve salvaguardare l'irreversibilità dell'unione monetaria, e poi aggiunge Draghi: serve un enorme balzo verso l'integrazione europea. Confermata una prima impressione, diciamo positiva, aggiungo io, non l'ha mai detto il presidente dell'Eurogruppo Aaron Dijsselbloem, però ha detto: visto il poco tempo che le istituzioni hanno avuto per analizzare le nuove proposte, non abbiamo potuto dare una visione finale, ci hanno dato una prima impressione, ora parte il lavoro tecnico. Diciamo che se la prima impressione fosse stata negativa, Dijsselbloem l'avrebbe detto, quindi in maniera neutra è un giudizio, in maniera diciamo relativa, ma è un giudizio positivo. New proposals from the Greek government came in this morning. Le nuove proposte del governo greco sono arrivate questa mattina. Le abbiamo accolte con favore e le consideriamo un passo positivo nel processo in corso. Tuttavia, dato il poco tempo che le istituzioni hanno avuto fino ad ora per fare una valutazione completa e approfondita, per ora non possiamo che esprimere una prima impressione. L'Eurogruppo dovrà lavorare a stretto contatto con le autorità greche per analizzare approfonditamente queste proposte, per valutare i dettagli e calcolarne l'impatto. Bisognerà fare una lista delle priorità e sulla base di questa speriamo di arrivare a un accordo entro la fine della settimana, utilizzando come base le proposte della Grecia. Beh, usando le proposte della Grecia vuol dire già una parziale approvazione. Si spinge un po' più in là invece il commissario europeo agli affari economico monetari, il francese Pierre Moscovici, dice: finalmente c'è una base solida su cui lavorare, però poi manca ancora il lavoro da fare. Abbiamo ricevuto le proposte della Grecia molto tardi, le abbiamo analizzate rapidamente. Ci sembra una buona base di partenza, ma c'è ancora del lavoro da fare per precisare il tutto e per verificarne la coerenza. Quindi le istituzioni si metteranno a lavoro insieme tra poco, in collaborazione con le autorità greche, per passare in rassegna tutte le proposte in vista di un accordo prossimo su una base politica di cui si parlerà stasera durante il vertice. Ce soir par les chefs d'État et de gouvernement de la zone euro. Oh, più allora, da un lato più prudente Angela Merkel, che devo dire forse è la novità più grossa per gli osservatori, un'Angela Merkel che ha cercato in tutti i modi di arrivare a un accordo pur sapendo che ha un parlamento tedesco, una maggioranza che potrebbe farle riservare qualche sorpresa, però ha detto se non si decide oggi c'è ancora tempo, sono molti giorni della settimana, cioè invitando alla prudenza, al no panic. Invece mantiene la sua fama di intransigente, di falco, il ministro delle finanze Wolfgang Schäuble, che entrando a ora di pranzo all'Eurogruppo ha detto beh, per ora non c'è niente di nuovo, non abbiamo ricevuto proposte di sostanza dalla Grecia. Non si può preparare un summit senza di esse. Non sono a conoscenza di nessuna nuova proposta. A quanto mi risulta, la situazione è la stessa di giovedì scorso. Per ora non abbiamo ricevuto nessuna proposta sostanziale. Non vedo come potremo, senza novità di rilievo, arrivare al termine dell'Eurogruppo con delle soluzioni. La situazione non è semplice, ma in assenza di proposte sostanziali e concrete, non vedo come potremo prepararci in maniera seria alle Euro Summit di questa sera. Können wir einen Euro Summit nicht seriös vorbereiten? Oh, e Carmine Burana in realtà stavolta erano anche abbastanza azzeccati per Schäuble, vista la loro intensità, diciamo, lirica, la loro tensione lirica. In realtà, di solito introducono il nostro uccellaccio, professor Giulio Sapelli, in volo tra Atene, Roma e tutti i paesi del sud, the oil belt, la cintura dell'olio. Buonasera. Certamente, io sono per l'olio, la cintura dell'olio, non del burro. Vabbè, adesso non iniziamo. Ma, anche scusa, lei, con una contrapposizione che ricorda il cattolicesimo. Sono preso dalle spole alimentari. Sì, lei sa che olio e burro distinsero, diciamo, certo, riforma e controriforma. Certo, ne parlava Fernand Braudel. L'Europa si divide nell'Europa del burro e in quella dell'olio. Ecco. Io sono con quella dell'olio. Perfetto, i francesi sono sempre un po' a metà, la parte alsaziana è più del burro e quella sud è più dell'olio. Detto ciò, andiamo sulla sostanza. Va bene, perché al di là di quello che uscirà stasera, fare previsioni è inutile. Abbiamo capito che probabilmente, con ogni probabilità, si prenderà tempo. C'è una piattaforma che adesso sembra più ragionevole della Grecia. Ricordo l'oggetto, perché molti dicono: ma che cosa è? Allora, se si arriva a un accordo dove Atene non deve soltanto ridurre, l'Atene non vuole ridurre le pensioni, non è un problema di età pensionabile, questo sbloccherebbe una tranche di aiuti da 7 miliardi e 200 milioni di euro, tranche di aiuti, diciamo, del gruppo, che permetterebbero ad Atene di pagare 1 miliardo e 600 milioni di euro al Fondo Monetario entro il prossimo 30 giugno. Il Fondo Monetario vuole uscire dalla ex troica, non vuole più sapere di dare soldi alla Grecia. I paesi emergenti dentro il fondo, Brasile, Russia, India, Cina, ha detto basta impelagarsi in queste vicende greche, però vuole essere pagato. Allora, la troica o l'ex troica propone un'estensione del piano di salvataggio per 6 mesi con aiuti fino a 18 miliardi, chiede in cambio un avanzo primario, cioè che alla Grecia, quello che resta alla Grecia tra uscite e entrate, pari all'1% del PIL, venga mantenuto, che venga rivista l'IVA con due aliquote del 13 e 23%, non inclusa però la bolletta elettrica, nuovi tagli alla spesa, compresa la difesa, e una correzione del bilancio pari al 2% del PIL. Atene che cosa ha offerto? Misure fiscali permanenti per un valore di circa il 2% del PIL, e quindi su quello si è abbastanza vicini. L'IVA invece lavora con tre aliquote dal 6,5% al 13% e al 23%, ma aumenterebbe alcune imposte su alberghi e prodotti alimentari. Stop ai prepensionamenti a partire dal 2016. Tsipras spinge per un'intesa definitiva, mi sa invece che si va verso una soluzione ponte. Intanto anche per lei comunque una previsione, per quanto difficile, su quello che avverrà stasera, e poi invece dopo il traffico la lezione che già possiamo trarre da questo sviluppo della vicenda e non gestione della vicenda greca. Intanto una previsione. La previsione è che questa sera non si deciderà nulla, perché è cambiato profondamente l'atmosfera. L'atmosfera è cambiata, si vuole dare un'idea che si giunge ad una soluzione puramente tecnica e non politica, perché non si vogliono esacerbare di odi nazionali, di invidie nazionali, di coloro che come la Spagna e il Portogallo hanno fatto i cosiddetti sacrifici e i greci non li fanno. Non si vuole soprattutto sollevare la questione francese, che si avvia a grandi passi adesso, una questione molto delicata, e quindi mentre la Francia negozia con intima persona con la Grecia, con i debitori greci, noi sappiamo molto bene che è profondamente, secondo le cosiddette regole di Maastricht, eccetera, eccetera, in cosiddetto pericolo e in osservazione. La soluzione scelta con le parole non solo della Merkel e di Gelsenbaum e di Moscovici, che lei ha giustamente registrato e ha fatto sentire, ma anche con la dichiarazione di Juncker: troncare e sopire, padre provinciale. Non si deve prendere nessuna decisione. La decisione tecnica saranno le istituzioni, si parla di mesi. Nel contempo, naturalmente, il vulcano Draghi, nella sua fucina, afflitto e così tutto sudato, mette sul piatto un'ottantina di miliardi per le banche greche. Però vale la mia teoria dello sbadiglio: non finirà nulla con un Big Bang, ma nelle classici modelli democristiani europei, con un gigantesco sbadiglio. Un gigantesco sbadiglio vi seppellirà. Allora, per parafrasare, lei dice tacere, sopire, la tensione era troppo alta, la scelta sarà quella di portare tutto su un binario, su un alveo tecnico, così la gente si annoierà, adesso lo dico forzando un po' la sua analisi, e tutto prenderà una dimensione talmente tecnica e tecnicistica che non sarà più titolo dei giornali. Dopo il traffico, però, professor Sapelli, vorrei sapere, insomma, avere un'analisi un po' più articolata su come abbiamo fatto, mio Dio, come sono caduta in basso, no? Si diceva una volta delle signore della buona borghesia. Ecco, questa Europa com'è caduta in basso, visto che per 5 anni ci siamo avviluppati su un paese che è l'1,8% del PIL europeo, arrivando a un punto in cui la Casa Bianca è quasi più preoccupata di noi. Di nuovo c'è stata una telefonata tra il segretario del Tesoro americano Jack Lew e Tsipras, ha detto: mi raccomando, trovate una soluzione nella crisi greca, sono terrorizzati gli americani. Ecco, come abbiamo fatto a meritare una figura così peregrina per non saper gestire un caso come la Grecia, dopo il traffico. Focus Economia. Ultima parte di Focus Economia. Dicevamo, come abbiamo fatto a cadere così in basso, come la reputazione di certe signore della buona borghesia, diciamo, ottocentesca, e mi riferisco all'Europa. Professor Sapelli, quando Mario Draghi dice, insomma, adesso però correrà un enorme balzo verso l'integrazione europea, io leggo un'altra cosa. Leggo un presidente della Banca Centrale Europea profondamente scontento e anche demoralizzato per come la governance, cioè i meccanismi con cui l'Europa è in grado di prendere una decisione, non funzionino, perché sennò non saremmo arrivati fino a questo punto, e in come poi non si capisca se conta il commissario europeo, il presidente Juncker, poi però conta Angela Merkel che si vede con Tsipras, quindi di nuovo torniamo alla politica bilaterale classica prima dell'euro. Insomma, come abbiamo fatto a cadere così in basso? Guardi, abbiamo fatto in questo modo. Draghi, e lo spiega bene, diciamo, la metafora di Mario Draghi, uomo amico e uomo di grande profondità. Lui crede veramente che sia possibile, tramite l'unione monetaria, procedere, come si dicono i francesi, après l'union monétaire l'intendance suivra. Lui crede veramente che si sarebbe potuto, con un po' di buona volontà, arrivare a un sistema fiscale unico, a un sistema di welfare unico, all'Union Bank e tutte queste cose qui, cioè a fare un'Europa federale, addirittura adesso a posto nella prossima riunione che, come lei sa, comincerà nei prossimi giorni, dove si dovrebbe ridiscutere l'architettura, ha messo all'ordine del giorno, perché lui ci crede veramente, povero figliolo, è veramente ammirevole, un ministero del tesoro europeo. Immagini un po' lei che catastrofe, perché tutto mentre andava avanti questo, come lei sa molto bene, l'ha descritto in tutte queste sue bellissime trasmissioni, l'Europa non solo si aggregava politicamente, ma si lentamente si disintegrava. Voglio dire, abbiamo dovuto scoprirlo quando la polizia francese, polemizzando con l'Italia, impedisce a coloro che sono arrivati qui di andare di là. Lo vediamo quando è stato impossibile raggiungere qualsiasi accordo vero sulla questione della politica estera. Lo vediamo adesso con l'Ucraina, quando c'è sulla questione russa una divisione nettissima. Cioè l'Europa, e questo è una cosa che noi storici e anche economisti, diciamo, io sono un economista sano e non infermo perché ho una formazione storica, sappiamo molto bene che quando c'è la recessione le diversità vengono fuori. Questi invece avevano in mente, le persone più illuminate come Mario Draghi, poi non dico quello che penso degli altri che lo seguivano, che dato che questa euro è stata fatta con l'abbondanza, ancora con la crescita, tutto si sarebbe unito. L'Europa invece si è disgregata. E allora, dato che non è possibile un'Europa federale, è possibile solo un'Europa alla Svizzera o agli Stati Uniti, moneta unica ma stati sovrani, lei capisce molto bene che adesso andiamo incontro a una catastrofe. Guardi un po' cosa stanno dicendo i finlandesi, adesso la Finlandia è andata in recessione. A forza di austerity anche la Finlandia è andata in recessione, no, lo dico perché i finlandesi erano tra i talebani dell'austerity con certi olandesi. Ma lì dove hanno più orsi che animali, quindi dovrebbero, che uomini, mi scusi, ogni tanto mi confondo in queste figure lombrosiane che mi offuscano la mente, anche lì dove avevano prolusioni di risorse, la Nokia, da austerity li ha ammazzati. Quindi lei capisce che noi abbiamo, noi europei, io a fatica dico questa parola ma so che è di moda, quindi dico noi europei, abbiamo costruito il nostro fallimento. Perché abbiamo accelerato ciò che non si può accelerare, la storia. Quando c'era una crescita sembrava che tutto fosse vicino, appena sono diventate le difficoltà, tutti abbiamo ricominciato a parlare. Però io vedo anche gli ascoltatori, diciamo, che si dividono, questo è un paese che è sempre guelfo o ghibellino, però Bartali o Coppi, però si dividono tra quelli che dicono la Grecia ha rotto le scatole, questi volevano vivere sopra le loro possibilità, e quelli che danno la colpa alla Germania per essersi incaponita e aver trasformato l'1.8% del PIL europeo in un caso mondiale. Chi dei due? Non bisogna essere né pro contro tedeschi o pro filo greci, bisogna essere contro questa Europa di Maastricht e del fiscal compact. La moneta unica va bene, ma questa illusione illuministico monetaria che si potesse mettere assieme popoli diversi. Scusi, noi abbiamo Verdi, loro hanno Wagner, no? Ma come si fa a mettere assieme dei popoli che hanno delle musiche così diverse? Tramite la moneta, ma non facciamo dire, appena abbiamo una crisi ci restringiamo tutti in noi stessi. Quindi anche poi c'è anche la menzogna e la calunnia sui greci, perché voglio dire, c'è greco e greco, diciamo Tsipras non ha certo truccato le carte, sono stati i conservatori che adesso fanno gli austeri. Fautori dell'austerity, quindi c'è tante cose che non si può parlare di un popolo insieme. Ci sono i tedeschi, non erano tutti nazisti. Anche qui io sento dire delle cose terribili. Io sono figlio di un partigiano. Mio padre mi ha insegnato a rispettare il popolo tedesco, perché prima di essere colpiti dai nazisti sono stati i comunisti, i socialisti, i preti protestanti e i preti cattolici. E la stessa cosa è per i greci. Quindi queste cose orribili che io sento, però sono il frutto che l'Europa non funziona più. Amico mio, se cominciamo ad odiarci, io sto con i greci, io sto con i tedeschi, ma allora vuol dire che si è rotto qualcosa qui. Quindi calma e gesso, può darsi che questa cosa greca ci aiuti a riscoprire un po' di buonsenso e a capire che bisogna mettere l'orologio un po' più lentamente e ritornare indietro agli stati nazionali. quindi stati nazionali con una moneta unica, ma con che si comportano unica. Da stati nazionali, certo, senza le Lady Pesce, Lady Mogherini, che non servono a nulla a sto punto, perché se ogni stato fa poi la sua politica estera, no? Ma no, si può fare adesso anche lì, non si può fare un coordinamento. Mm. Diciamo anche gli Stati Uniti, cioè Stati Uniti d'Europa, il manifesto di 28enne, ma l'avete letto? Non era Stati Uniti d'Europa. Poi perché non si può avere un ministro degli esteri unico? Pensi alla Federal Reserve, la banca centrale, è una banca federale, sono rappresentati, come lei sa molto bene, dei vice governatori che rappresentano certo. gli Stati, quindi c'è da immaginarsi le cose, non bisogna... Oh, ma io vorrei cogliere, nel farla volare via, vorrei cogliere l'aspetto più positivo della sua analisi, che chiaramente non poteva essere così positiva, forse se da sta vicenda usciremo senza troppe ferite, che già ci sono state, forse ci insegnerà un po' più di buon senso, non accelerare i tempi, non avere questi automatismi ragionieristici, senza offesa per i ragionieri che in questa crisi non c'entrano nulla. Vada via uccellaccio Giulio Sapelli, da Sebastiano Berisoni l'auguro di una buona serata. Focus Economia torna domani dalle 17 in poi. Radio 24, la passione si sente.